America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, non abbiamo avuto grandi notizie ieri, abbiamo una borsa un po' asfittica, preoccupata dal fatto che ci siano altre tensioni in Europa. Abbiamo visto le dichiarazioni del segretario del Tesoro Geithner, abbiamo visto quelle di Bernanke, abbiamo una notizia attesa per oggi, dovrebbe nominare Barack Obama il candidato per la guida della Banca Mondiale. Sono fatti i nomi di Larry Summers, di Indra Nooyi, che è una donna, amministratore delegato alla Pepsi-Cola, Susan Rice, che attualmente è l'ambasciatore alle Nazioni Unite di Barack Obama, anche Laura Tyson, ex economista dell'amministrazione Clinton. Ci sono anche due outsider, il ministro delle finanze nigeriano Aiweala e l'ex ministro delle finanze colombiano Ocampo, ma ovviamente alla fine prevarrà un americano. Ma oggi ci avviciniamo al weekend, come la settimana scorsa vorrei aprire una pagina culturale, chiudiamo con le questioni politiche, domani ci sarà il voto in Louisiana, vi parleremo anche di quello. Vorrei dedicare la trasmissione di oggi a un importante artista italiano, Michelangelo Pistoletto, che ha aperto ieri alla Galleria Luring Augustine a New York, a Chelsea, una sua mostra di nuovi quadri specchiati. America 24. Michelangelo Pistoletto è con me per questa nuova mostra in questa galleria Luring, vi dicevo, che si chiama Lavoro, giusto? Buongiorno Pistoletto. Buongiorno. Sì, alla galleria Luring Augustine si è inaugurata una mostra intitolata Lavoro, che mette insieme 14 opere su 22 che costituiscono un insieme. Il progetto nasce da una operazione molto realistica di ristrutturazione della Città dell'Arte, la mia fondazione che ho creato a Biella. Ci sono operai, ci sono macchine e quindi è un soggetto che sto vivendo in questo momento e ho bloccato questi soggetti e li ho fissati sulle superfici specchianti. Queste opere rappresentano sia una memoria di questo momento che una realtà che si svolge nel tempo con gli spettatori che possono entrare loro stessi nell'opera. La mostra è chiamata Lavoro, stiamo vivendo un momento di crisi a livello internazionale. In Italia si parla di lavoro, si parla di articolo 18 e quindi di flessibilità contro rigidità. Come vede lei questo dibattito? Oggi la crisi consiste nella produzione industriale che è arrivata alla saturazione. Bisogna trovare nuove formule, nuove fonti di lavoro, e quindi il lavoro è legato alla problematica della vendita del prodotto, della produzione. Non ci possono essere forme protettive che riguardano sistemi passati, quando la produzione andava avanti per conto proprio, senza ostacoli. Bisogna che i sindacati oggi portino il lavoratore a un punto di incontro con chi produce, perché insieme si possa superare questa crisi che è mondiale. Il passaggio per l'America è un passaggio tortuoso, perché lei, se non sbaglio, comincia a Torino, da Torino poi c'è una prima mostra delle sue opere specchianti che non va troppo bene, poi passa per Parigi, poi da Parigi arriva a New York. Ci racconti questa storia? Io ho avuto un contratto a Torino con una galleria di arte figurativa nel 58, quando facevo opere molto materiche. Con i quadri specchianti la materia si era rarefatta, è diventata specchio, il gallerista è rimasto sconvolto. E, chi era il gallerista? Il gallerista era Tazzoli, la galleria Tazzoli di Torino. Era un gallerista che mostrava i più grossi artisti del mondo in quel momento. Tra Bacon e Giacometti, quindi era una galleria prestigiosissima, però c'era questa idea un po' tradizionale che io avevo superato con i quadri specchianti. Quindi nel momento in cui il mio lavoro in quella galleria veniva rifiutato, ho avuto la fortuna di incontrare a Parigi Ileana Sonnabend, che stava portando proprio per la prima volta a Parigi i lavori degli artisti pop. Ileana è venuta a Torino, ha comprato l'intera mostra e ha rilevato il mio contratto con la Galleria di Torino. E Leo Castelli, ex marito di Ileana, ha portato i miei lavori a New York, negli Stati Uniti, e io ero l'unico artista italiano, oltre che europeo, in quella galleria americana. Ecco, Leo Castelli è un mito. Quali erano i suoi artisti? Ricordiamoli. Gli artisti di quel momento erano Rosenquist, Jasper Johns, Rauschenberg, Lichtenstein, Oldenburg, Warhol. E quando lei è arrivato in America per la prima volta negli anni 60, ecco, che cosa ha provato un giovane artista che arriva a New York in quegli anni? Ho provato una duplice sensazione: una di sentirmi a casa, guardando la città da, diciamo, dal secondo piano in giù. Le strade regolari, le strade addirittura simili a quelle di Torino, nel senso di una griglia di strade. E invece, guardando poi in alto, vedevo la realizzazione del sogno europeo, che era poi quello di svettare e di conquistare spazi illimitati nel senso del progresso, ecco. Quasi la realizzazione del sogno futurista. New York nel 2012 rispetto agli anni 60 rappresenta ancora quella realizzazione del sogno futurista? Lei sente ancora quell'energia per strada in questa città, in questa America? Io sento un'energia rinnovata qui a New York. Penso che ancora questa sia una città centrale, nel senso di un incontro delle culture e delle economie. Non certamente sul piano delle soluzioni per il mondo, ma un laboratorio, quello sì. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di New York con Michelangelo Pistoletto e di quanto l'ha colpita questa città che ha realizzato un sogno europeo. E dunque dedichiamo a New York la canzone del giorno. Frank Sinatra, New York, New York. I'm melting away. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.